Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo spesso parlato anche di recente di tecnologie per la produzione di energia dal moto ondoso, ma sfruttare l'energia del mare significa conoscere in modo dettagliato la velocità delle correnti, l'altezza delle onde, l'intensità delle maree. Per questo l'ENEA ha realizzato piuttosto di recente l'Atlante del clima ondoso del Mediterraneo, la prima mappa capace di individuare in modo accurato le zone più interessanti per lo sviluppo energetico delle onde. Ne parliamo con Gianmaria Sannino, ricercatore dell'ENEA, esperto di energie marine, che è stato già altre volte nostro ospite. Buonasera Sannino, bentornato. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Intanto ci ricorda brevemente quali sono i vantaggi delle onde, perché è importante sviluppare proprio le onde? Beh, intanto perché c'è tanta energia racchiusa all'interno delle onde. In pratica l'energia dalle onde non è altro che un altro modo di vedere all'energia eolica. Certo. Il vento spira sul mare e trasferisce l'energia meccanica alle onde. Diciamo, l'elemento positivo delle onde è che nel momento in cui finisce di spirare il vento, le onde continuano ad arrivare. Quindi da questo punto di vista la densità di energia che troviamo in un determinato punto, immaginiamo un punto dove possiamo andare a installare un sistema di conversione delle onde in energia elettrica, riceverebbe dal mare una quantità di energia superiore a quella che potrebbe ricevere nello stesso punto una pala eolica. Quindi diciamo c'è più continuità rispetto al vento e poi c'è anche una questione diciamo di sfasamento temporale anche rispetto di tipo stagionale che è importante. Assolutamente sì, le onde in special modo nel Mediterraneo sono molto più intense, l'energia è sicuramente molta di più durante l'inverno e l'autunno, quindi lì nel periodo in cui c'è una richiesta maggiore di energia abbiamo anche la quantità di energia maggiore che ci può fornire il moto ondoso. Compensa un po' diciamo invece il sole che fa esattamente il contrario, soprattutto presente durante l'estate. Assolutamente. Dunque veniamo a questa mappa, che informazioni dà? La mappa dà delle informazioni estremamente dettagliate su intanto dove andare a installare questi dispositivi di conversione delle onde in energia elettrica, ma dà anche delle informazioni estremamente dettagliate su come costruire questi convertitori di energia. I convertitori di energia dalle onde devono essere un po' come dei violini, si devono accordare alle onde del mare. Questa mappa dà questo genere di informazioni, cioè dice in particolare come sono queste onde del mare. Per esempio, quindi, oltre all'altezza dell'onda, che è un dato importante, ci dirà se sono delle onde più lunghe o più corte. Ci dice quanto sono alte, con quale frequenza si abbattono sulla costa e così via. E questo con un intervallo di poche centinaia di metri, se ho capito bene, con un dettaglio di questo tipo. Che cosa viene fuori da questa analisi? Quali sono le aree più interessanti dal punto di vista dello sfruttamento del moto ondoso a fini energetici in Italia? In Italia le zone più interessate sono la costa occidentale della Sardegna e il canale di Sicilia. Lì abbiamo delle energie che sono approssimativamente dell'ordine di 13 kW ogni metro di costa. Nella costa occidentale della Sardegna si riduce di un po', intorno ai 9-10 kW per metro invece nel canale di Sicilia. Fermo restando che comunque queste quantità di energia sono sicuramente le più alte dell'intero Mediterraneo. Dell'intero Mediterraneo. È sicuramente quella più ricca. Ecco, è difficile spiegare a volte i numeri, questi 10 kW per metro a che cosa corrispondono? Diciamo un motorino a qualche kilowatt, no? Di potenza, per dare un ordine di grandezza, no? Assolutamente sì, ma questo motorino bisogna immaginarlo per ogni metro di spiaggia. Ecco, certo, quella è la disponibilità di energia. Ecco, oltre all'Atlante avete messo su anche un vero e proprio sistema diciamo di previsioni più simili a quelle del tempo, per capirsi, sempre in fatto di moto ondoso. Ce ne può parlare brevemente? È un sistema di previsione che ci dà la possibilità di prevedere con un anticipo di qualche ora lo stato del mare, quindi anche le caratteristiche delle onde che andranno a impattare i dispositivi di conversione delle onde. Perché ne abbiamo bisogno? È abbastanza semplice. I nuovi dispositivi di conversione sono anche smart, tra virgolette, sono capaci quindi di adattarsi al moto ondoso per riuscire a catturare il massimo di energia. Se sappiamo con anticipo come sono fatte queste onde che andranno a impattare il nostro sistema, riusciremo a tirare fuori anche molta più energia. Con questo sistema di previsione vogliamo assolutamente colmare questa lacuna, quindi in tutto per tutto il Mediterraneo e in 10 porti italiani riusciamo a dare un dettaglio in termini di previsione estremamente elevato, sia in termini temporali che in termini spaziali. Ecco, oltre a questo utilizzo, quindi serviranno soprattutto quando ci saranno tanti di questi apparati in mare, delle previsioni fino a 5 giorni, se non sbaglio, del moto ondoso possono avere, immagino però, tante altre applicazioni. Assolutamente, come un sistema di previsione qualunque, il nostro sistema, oltre a dare l'energia che abbiamo a disposizione, dà anche l'altezza dell'onda, la direzione di provenienza delle onde, quindi il vero e proprio stato del mare che può servire alla navigazione piuttosto che alla protezione civile, per intenderci. Perfetto, grazie Gianmaria Sannino. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.